Ad alta voce. Piero Baldini legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Renzo, adunque, appena furono in strada, cominciò a girar gli occhi in qua e in là, a sporgersi con la persona a destra e a sinistra, a tender gli orecchi. Non c'era però concorso straordinario. E benché sul viso di più di un passeggero si potesse leggere facilmente un certo non so che di sedizioso, pure ognuno andava diritto per la sua strada. E sedizione, propriamente detta, non c'era. «Giudizio, giudizio!» gli sussurrava il notaio dietro le spalle. «Il vostro onore, l'onore, figliuolo!» Ma quando Renzo, badando attentamente a tre che venivano con visi accesi, sentì che parlavano di un forno, di farina nascosta, di giustizia, cominciò anche a far loro dei cenni col viso, a tossire, in quel modo che indica tutt'altro che un raffreddore. Quelli guardarono più attentamente la comitiva e si fermarono. Con loro si fermarono altri che arrivavano. Altri che gli erano passati davanti, voltatisi al bisbiglio, tornavano indietro e facevano coda. «Badate a voi, giudizio, figliuolo. Peggio per voi, vedete, non guastate i fatti vostri. L'onore, la reputazione», continuava a sussurrare il notaio. Renzo faceva peggio. I birri, dopo essersi consultati con l'occhio pensando di far bene, ognuno è soggetto a sbagliare, gli diedero una stretta di manichini. «Ai, ai, ai!» grida il tormentato. Al grido la gente s'affolla intorno. N'accorre da ogni parte della strada. La comitiva si trova incagliata. «È un malvivente!» bisbigliava il notaio a quelli che gli erano a ridosso. «È un ladro colto sul fatto! Si ritirino, lasci passare la giustizia!» Ma Renzo, visto il bel momento, visti i birri diventar bianchi, o almeno pallidi, «se non m'aiuto ora», pensò, «mio danno!» E subito alzò la voce. «Figliuoli, mi menano in prigione perché ieri ho gridato pane e giustizia! Non ho fatto nulla, sono galantuomo! Aiutatemi, non mi abbandonate, figliuoli!» Un mormorio favorevole, voci più chiare di protezione s'alzano in risposta. I birri sul principio comandano, poi chiedono, poi pregano i più vicini di andarsene, di far largo. La folla invece incalza e pigia sempre più. Quelli, vista la mala parata, lasciano andare i manichini e non si curano più d'altro che di perdersi nella folla per uscirne inosservati. Il notaio desiderava ardentemente di far lo stesso, ma c'era dei guai per amor della cappa nera. Il pover'uomo, pallido e sbigottito, cercava di farsi piccino piccino, s'andava storgendo per sgusciar fuori dalla folla, ma non poteva alzar gli occhi che non se ne vedesse 20 addosso. Studiava tutte le maniere di comparire un estraneo che, passando di lì a caso, si fosse trovato stretto nella calca come una pagliucola nel ghiaccio e, riscontrandosi a viso con uno che lo guardava fisso, con un cipiglio peggio degli altri, lui, composta la bocca al sorriso con un suo fare sciocco, gli domandò: «Cos'è stato?» «Un corvaccio!» rispose colui. «Corvaccio, corvaccio!» risuonò all'intorno. Alle grida s'aggiunsero gli urtoni, di maniera che in poco tempo, parte con le gambe proprie, parte con le gomita altrui, ottenne ciò che più gli premeva in quel momento, d'esser fuori di quel serra-serra. «Scappa, scappa, galantuomo! Lì c'è un convento! Ecco là una chiesa! Di qui, di là!» si grida a Renzo da ogni parte. In quanto allo scappare, pensate se aveva bisogno di consigli. Fin dal primo momento che gli era balenato in mente una speranza di uscire da quell'unghie, aveva cominciato a fare i suoi conti e stabilito, se questo gli riusciva, d'andare senza fermarsi finché non fosse fuori non solo della città, ma del ducato. Perché, aveva pensato, il mio nome l'hanno sui loro libracci, in qualunque maniera l'abbiano avuto, e con nome e cognome mi vengono a prendere quando vogliono. E in quanto a un asilo, non vi si sarebbe cacciato che quando avesse avuto i birri alle spalle? Perché se posso essere uccel di bosco, aveva anche pensato, non voglio diventare uccel di gabbia. Aveva dunque disegnato per suo rifugio quel paese, nel territorio di Bergamo, dove era accasato quel suo cugino Bortolo, se ve ne rammentate, che più volte l'aveva invitato a andar là. Ma trovar la strada, lì stava il male. Lasciato in una parte sconosciuta di una città, si può dir sconosciuta, Renzo non sapeva neppure da che porta si uscisse per andare a Bergamo. E quando l'avesse saputo, non sapeva poi andare alla porta. Fu lì per farsi insegnare la strada da qualcheduno dei suoi liberatori. Ma siccome nel poco tempo che aveva avuto per meditare sui casi suoi gli erano passate per la mente certe idee su quello spadaio così obbligante, padre di 4 figliuoli così a buon conto, non volle manifestare i suoi disegni a una gran brigata dove ce ne poteva essere qualche altro di quel conio, e risolvette subito di allontanarsi in fretta di lì, che la strada se la farebbe poi insegnare il luogo dove nessuno sapesse chi era né il perché la domandasse. Disse ai suoi liberatori: «Grazie tante, figliuoli, siate benedetti!» E uscendo per il largo che gli fu fatto immediatamente, prese la rincorsa e via, dentro per un vicolo, giù per una stradetta, galoppò un pezzo senza saper dove. Quando gli parve d'essersi allontanato abbastanza, rallentò il passo per non dar sospetto e cominciò a guardare in qua e là per scegliere la persona a cui far la sua domanda, una faccia che ispirasse confidenza. Visto finalmente uno che veniva in fretta, pensò che questo, avendo probabilmente qualche affare pressante, gli risponderebbe subito, senza altre chiacchiere, e sentendolo parlar da sé, giudicò che dovesse essere un uomo sincero. Gli s'accostò e disse: «Di grazia, quel signore, da che parte si va per andare a Bergamo?» «Per andare a Bergamo, da Porta Orientale.» «Grazie tante, e per andare a Porta Orientale?» «Prendete quella strada a Mancina, vi troverete sulla piazza del Duomo, poi...» «Basta, signore, il resto lo so. Dio gliene renda merito.» E deviato si incamminò dalla parte che gli era stata indicata. L'altro gli guardò dietro un momento e, accozzando nel suo pensiero quella maniera di camminare con la domanda, disse tra sé: «O n'ha fatta una, o qualcuno la vuol fare a lui.» Renzo arriva sulla piazza del Duomo, l'attraversa, passa accanto a un mucchio di cenere e di carboni spenti e riconosce gli avanzi del falò di cui era stato spettatore il giorno avanti. Costeggia gli scalini del Duomo, rivede il forno delle grucce mezzo smantellato e guardato dai soldati e tira dritto per la strada da cui era venuto insieme con la folla. Arriva al convento dei Cappuccini, dà un'occhiata a quella piazza e alla porta della chiesa e dice tra sé, sospirando: «Ma aveva però dato un buon parere quel frate di ieri, che stesse in chiesa ad aspettare a fare un po' di bene.» Qui, essendosi fermato un momento a guardare attentamente alla porta per cui doveva passare e vedendovi così da lontano molta gente a guardia e avendo la fantasia un po' riscaldata, bisogna compatirlo, aveva i suoi motivi, provò una certa ripugnanza ad affrontare quel passo. Si trovava così a mano un luogo d'asilo e dove con quella lettera sarebbe ben raccomandato. Fu tentato fortemente ad entrarvi, ma subito ripreso animo pensò: «Uccel di bosco, finché si può, chi mi conosce? Di ragione i birri non si saranno fatti in pezzi per andarmi ad aspettare a tutte le porte.» Si voltò per vedere se mai venissero da quella parte. Non vide né quelli né altri che paressero occuparsi di lui. Va innanzi, rallenta quelle gambe benedette che volevano sempre correre, mentre conveniva soltanto camminare. E adagio, adagio, fischiando in semitono, arriva alla porta. C'era proprio sul passo un mucchio di gabellini e per rinforzo anche dei micheletti spagnoli, ma stavano tutti attenti verso il di fuori per non lasciare entrare di quelli che alla notizia di una sommossa accorrono come i corvi al campo dove è stata data battaglia. Di maniera che Renzo, con un'aria indifferente, con gli occhi bassi e con un andare così tra il viandante e uno che va da spasso, uscì senza che nessuno gli dicesse nulla, ma il cuore di dentro faceva un gran battere. Vedendo a dritta una viottola, entrò in quella per evitare la strada maestra e camminò un pezzo, prima di voltarsi neppure indietro. Cammina, cammina, trova cascine, trova villaggi, tira innanzi senza domandarne il nome. È certo d'allontanarsi da Milano. Spera d'andare verso Bergamo, questo gli basta per ora. Ogni tanto si voltava indietro, ogni tanto andava anche guardando e strofinando or l'uno or l'altro polso, ancora un po' indolenziti e segnati in giro di una striscia rosseggiante, vestigio della cordicella. I suoi pensieri erano, come ognuno può immaginarsi, un guazzabuglio di pentimenti, di inquietudini, di rabbie, di tenerezze. Era uno studio faticoso di raccapezzare le cose dette e fatte la sera avanti, di scoprire la parte segreta della sua dolorosa storia. I suoi sospetti cadevano naturalmente sullo spadaio, al quale si rammentava bene d'averlo spiattellato. e ripensando alla maniera con cui gliel'aveva cavato di bocca e a tutto il fare di colui, a tutte quelle esibizioni che riuscivano sempre a voler sapere qualcosa, il sospetto diveniva quasi certezza. Se non che si lamentava poi anche in confuso d'aver, dopo la partenza dello spadaio, continuato a cicalare con chi? Indovina la Grillo, di cosa? La memoria, per quanto venisse esaminata, non lo sapeva dire. Non sapeva dir altro che d'essersi in quel tempo trovata fuori di casa. Il poverino si smarriva in quella ricerca. Era come un uomo che ha sottoscritti molti fogli bianchi e li ha affidati a uno che credeva il fior dei galantuomini e, scoprendolo poi un imbroglione, vorrebbe conoscere lo stato dei suoi affari. Che conoscere? È un caos. Un altro studio penoso era quello di fare sull'avvenire un disegno che gli potesse piacere. Quelli che non erano in aria erano tutti malinconici. Ma ben presto lo studio più penoso fu quello di trovare la strada. Dopo aver camminato un pezzo, si può dire, all'avventura, vide che da sé non ne poteva uscire. Provava bensì una certa ripugnanza a metter fuori quella parola Bergamo, come se avesse un non so che di sospetto, di sfacciato. Quello che gli venne in mente fu di scovare con qualche astuzia il nome di qualche paese vicino al confine e al quale si potesse andare per strade comunali. E domandando di quello si farebbe insegnare la strada senza seminar qua e là quella domanda di Bergamo che gli pareva puzzar tanto di fuga, di sfratto, di criminale. Fatti alcuni passi in gorgonzola, vide un'insegna, entrò. E all'oste che gli venne incontro chiese un boccone e una mezzetta di vino. Le miglia di più e il tempo gli avevano fatto passare quell'odio così estremo e fanatico. «Vi prego di far presto», soggiunse, «perché ho bisogno di rimettermi subito in strada». E questo lo disse non solo perché era vero, ma anche per paura che l'oste, immaginandosi che volesse dormir lì, non gli uscisse fuori a domandar del nome e del cognome e d'onde veniva e perché negozio alla larga. L'oste rispose a Renzo che sarebbe servito e questo si mise a sedere in fondo della tavola vicino all'uscio, il posto dei vergognosi. C'erano in quella stanza alcuni sfaccendati del paese, i quali, dopo aver discusse e commentate le gran notizie di Milano del giorno avanti, si struggevano di sapere un poco come fosse andata anche in quel giorno, tanto più che quelle prime erano più atte a stuzzicar la curiosità che a soddisfarla. Una sollevazione, né soggiogata né vittoriosa, sospesa più che terminata dalla notte, una cosa tronca, la fine di un atto piuttosto che di un dramma. Un di coloro si staccò dalla brigata, s'accostò al soprarrivato e gli domandò se veniva da Milano. «Io?» disse Renzo sorpreso per prender tempo a rispondere. «Voi, se la domanda è lecita». Renzo, tentennando il capo, stringendo le labbra e facendone uscire un suono inarticolato, disse «Milano, da quel che ho sentito dire, non deve essere un luogo da andarci in questi momenti, meno che per una gran necessità». «Continua dunque anche oggi il fracasso?» domandò con più istanza il curioso. «Bisognerebbe essere là per saperlo», disse Renzo. «Ma voi non venite da Milano?» «Vengo dall'Iscate», rispose lesto il giovane che intanto aveva pensato alla sua risposta. Ne veniva infatti a rigor di termini perché c'era passato e il nome l'aveva saputo a un certo punto della strada da un viandante che gli aveva indicato quel paese come il primo che doveva attraversare per arrivare a Gorgonzola. «Oh», disse l'amico come se volesse dire «faresti meglio venire da Milano, ma pazienza». «E Aliscate?» soggiunse. «Non si sapeva niente di Milano?» «E potrebbe essere benissimo che qualcheduno là sapesse qualche cosa», rispose il Montanaro. «Ma io non ho sentito dir nulla». E queste parole le proferì in quella maniera particolare che par che voglia dire «ho finito». Il curioso ritornò al suo posto e un momento dopo l'oste venne a mettere in tavola. «Quanto c'è di qui all'Adda?» gli disse Renzo mezzo tra i denti con un fare da addormentato che gli abbiamo visto qualche altra volta. «All'Adda per passare?» disse l'oste. «Cioè sì, all'Adda. Volete passare dal ponte di Cassano o sulla chiatta di Canonica?» «Dove si sia, domando così per curiosità». «Volevo dire, perché quelli sono i luoghi dove passano i galantuomini, la gente che può dar conto di sé». «Va bene, e quanto c'è?» «Fate conto che tanto a un luogo come all'altro, poco più poco meno, ci sarà 6 miglia». «6 miglia, non credevo tanto», disse Renzo. «Eh già», riprese poi con un'aria di indifferenza portata fino all'affettazione. «Eh già, chi avesse bisogno di prendere una scorciatoia, ci saranno altri luoghi da poter passare?» «Ce n'è sicuro», rispose l'oste ficcandogli in viso 2 occhi pieni di una curiosità maliziosa. Bastò questo per far morire tra denti al giovane le altre domande che aveva preparate. Si tirò davanti il piatto e, guardando la mezzetta che l'oste aveva posata insieme con quello sulla tavola, disse: «E il vino è sincero?» «Come l'oro», disse l'oste. «Domandatene pure a tutta la gente del paese e del contorno che se ne intende, e poi lo sentirete». E così dicendo tornò verso la brigata. «Maledetti gli osti!» esclamò Renzo fra sé. «Più ne conosco, peggio li trovo». Nonostante si mise a mangiare con grande appetito, stando nello stesso tempo in orecchi, senza che paresse il suo fatto, per veder di scoprire il paese, di rilevare come si pensasse colà sul grande avvenimento nel quale egli aveva avuto non piccola parte, ed osservare specialmente se tra quei parlatori ci fosse qualche galantuomo a cui un povero figliuolo potesse fidarsi di domandar la strada, senza timore d'esser messo alle strette e forzato a ciarlar dei fatti suoi. «Ma», diceva uno, «questa volta par proprio che i milanesi abbiano voluto far davvero. Basta, domani al più tardi si saprà qualcosa. Mi pento di non essere andato a Milano stamattina», diceva un altro. «Ah, se vai domani vengo anch'io», disse un terzo, «poi un altro, poi un altro». «Quel che vorrei sapere», rispose il primo, «è se quei signori di Milano penseranno anche alla povera gente di campagna, o se faranno far la legge buona solamente per loro. Sapete come sono, eh? Cittadini superbi, tutto per loro. Gli altri, come se non ci fossero. La bocca l'abbiamo anche noi, sia per mangiare, sia per dire la nostra ragione», disse un altro, con voce tanto più modesta quanto più la proposizione era avanzata. «E quando la cosa sia incamminata...» Ma credette meglio di non finire la frase. «Del grano nascosto non ce n'è solamente in Milano», cominciava un altro con un'aria cupa e maliziosa, «quando sentono avvicinarsi un cavallo. Corrono tutti all'uscio e, riconosciuto colui che arrivava, gli vanno incontro. Era un mercante di Milano che, andando più volte l'anno a Bergamo per i suoi traffici, era solito passare la notte in quell'osteria. E siccome ci trovava quasi sempre la stessa compagnia, li conosceva tutti. Gli si affollano intorno. Uno prende la briglia, un altro la staffa. «Ben arrivato, ben arrivato, ben trovati. Avete fatto buon viaggio? Buonissimo. E voi altri come state?» «Bene, bene. Che nuove ci portate di Milano?» «Ah, ecco quelli delle novità», disse il mercante smontando e lasciando il cavallo in mano di un garzone. E poi, continuò entrando con la compagnia, «a quest'ora le saprete forse meglio di me». «Non sappiamo nulla, davvero», disse più d'uno mettendosi la mano sul petto. «Possibile», disse il mercante. «Dunque ne sentirete delle belle o delle brutte? Ehi, oste, il mio letto solito è in libertà?» «Bene. Un bicchiere di vino e il mio solito boccone, subito. Perché voglio andare a letto presto per partire presto domattina e arrivare a Bergamo per l'ora del desinare. E voi altri?» continuò mettendosi a sedere dalla parte opposta a quella dove stava Renzo, zitto e attento. «Voi altri non sapete di tutte quelle diavolerie di ieri?» «Di ieri sì». «Vedete dunque», riprese il mercante, «se le sapete le novità. Lo dicevo io che, stando qui sempre di guardia, per frugar quelli che passano. Ma oggi, com'è andata oggi?» «Ah, oggi. Non sapete niente d'oggi?» «Niente affatto. Non è passato nessuno. Dunque, lasciatemi bagnare le labbra e poi vi dirò le cose d'oggi. sentirete. Empì il bicchiere. Lo prese con una mano, poi con le prime due dita dell'altra sollevò i baffi, poi si lisciò la barba, bevette e riprese. Oggi, amici cari, ci mancò poco che non fosse una giornata brusca come ieri o peggio. E non mi par quasi vero d'essere qui a chiacchierar con voi perché avevo già messo da parte ogni pensiero di viaggio per restare a guardare la mia povera bottega. Che diavolo c'era? Disse uno degli ascoltanti. Proprio il diavolo, sentirete. E trinciando la pietanza che gli era stata messa davanti e poi mangiando, continuò il suo racconto. I compagni ritti di qua e di là della tavola lo stavano a sentire con la bocca aperta. Renzo, al suo posto, senza che paresse suo fatto, stava attento, forse più di tutti, masticando ad agio gli ultimi suoi bocconi. Stamattina, dunque, quei birboni che ieri avevano fatto quel chiasso orrendo si trovarono a posti convenuti. Già c'era un'intelligenza, tutte cose preparate. Si riunirono e ricominciarono quella bella storia di girare di strada in strada gridando per tirare altra gente. Sapete che è come quando si spazza, con riverenza parlando, la casa. Il mucchio del sudiciume ingrossa quanto più si va avanti. Quando parve loro d'esser gente abbastanza, s'avviarono verso la casa del signor vicario di provvisione. Come se non bastassero le tirannie che gli hanno fatto ieri a un signore di quella sorte. Oh, che birboni! E la roba che dicevano contro di lui, tutte invenzioni. Un signor da bene, puntuale, e io lo posso dire che son tutto di casa e lo servo di panno per le livree della servitù. Si incamminarono dunque verso quella casa. Bisognava vedere che canaglia, che facce. Figuratevi che sono passati davanti alla mia bottega, facce che i giudei della Via Crucis non ci son per nulla. E le cose che uscivano da quelle bocche, da turarsene negli orecchi, se non fosse stato che non tornava conto di farsi scorgere. Andavano dunque con la buona intenzione di dare il sacco, ma... E qui, alzata in aria e stesa la mano sinistra, si mise la punta del pollice alla punta del naso. «Ma?» dissero forse tutti gli ascoltatori. «Ma», continuò il mercante, «trovarono la strada chiusa, con travi e con carri, e dietro quella barricata una bella fila di micheletti con gli archibusi spianati per riceverli come si meritavano. Quando videro questo bello apparato, cosa avreste fatto voi altri? Tornare indietro! Sicuro! E così fecero. Ma vedete un poco se non era il demonio che li portava. Son lì, sul Cordusio. Vedon lì quel forno che fin da ieri avevano voluto saccheggiare. E cosa si faceva in quella bottega? Si distribuiva il pane agli avventori. C'era dei cavalieri e fior di cavalieri a invigilare che tutto andasse bene. E costoro avevano il diavolo addosso, vi dico, e poi c'era chi li aizzava. Costoro dentro come disperati, piglia tu che piglio anch'io in un batter d'occhio, cavalieri, fornai, avventori, pani, banco, panche, madie, casse, sacchi, frulloni, crusca, farina, pasta, tutto sotto sopra. E i micheletti, avevano la casa del vicario da guardare, non si può cantare e portare la croce. Fu in un batter d'occhio, vi dico, piglia, tutto ciò che c'era buono a qualcosa fu preso. E poi torna in campo quel bel ritrovato di ieri di portare il resto sulla piazza e di farne una fiammata. E già incominciavano i manigoldi a tirar fuori roba, quando uno più manigoldo degli altri, indovinate un po' con che bella proposta venne fuori. Con che cosa? Di fare un mucchio di tutto nella bottega, di dar fuoco al mucchio e alla casa insieme. Detto fatto, ci è andato fuoco. Aspettate. Un galantuomo del vicinato ebbe un'ispirazione dal cielo. Corse su nelle stanze, cercò di un crocifisso, lo trovò, l'attaccò all'archetto di una finestra, prese da capo di un letto due candele benedette, le accese e le mise sul davanzale, a destra e a sinistra del crocifisso. La gente guarda in su. In un Milano, bisogna dirla, c'è ancora del timor di Dio. Tutti tornarono in sé. La più parte, voglio dire, c'era bensì dei diavoli che per rubare avrebbero dato fuoco anche al paradiso. Ma visto che la gente non era del loro parere, dovettero smettere e star cheti. Indovinate ora chi arrivò all'improvviso. Tutti i monsignori del Duomo, in processione, a croce alzata, in abito corale. E Monsignor Mazzenta, arciprete, cominciò a predicare da una parte, e Monsignor Settala, penitenziere, da un'altra, e gli altri anche loro. Ma brava gente, Che cosa volete fare? Ma è questo l'esempio che date ai vostri figliuoli? Ma tornate a casa, ma non sapete che il pane è a buon mercato più di prima? Ma andate a vedere che c'è l'avviso sulle cantonate. Era vero? Diavolo, volete che i monsignori del Duomo venissero in Campamagna a dir delle fandonie? E la gente cosa fece? A poco se ne andarono. Corsero alle cantonate e chi sapeva leggere, là c'era proprio la meta. Indovinate un poco, un pane d'ottonce per un soldo. Che bazza! La vigna è bella, purché la duri. Sapete quanta farina hanno mandato a male tra ieri e stamattina? Da mantenere il ducato per 2 mesi. E per fuori di Milano non si è fatta nessuna legge buona? Quel che si è fatto per Milano è tutto a spese della città. Non so che vi dire. Per voi altri sarà quel che Dio vorrà. A buon conto i fracassi sono finiti. Non v'ho detto tutto. Ora viene il buono. Cosa c'è ancora? C'è che ieri sera o stamattina che sia ne sono stati agguantati molti e subito si è saputo che i capi saranno impiccati. Appena cominciò a spargersi questa voce, ognuno andava a casa per la più corta, per non arrischiare d'essere nel numero. Milano, quando io ne sono uscito, pareva un convento di frati. Li impiccheranno poi davvero? E come? E presto, rispose il mercante. E la gente cosa farà? Domandò ancora colui che aveva fatto l'altra domanda. La gente? Anderà a vedere, disse il mercante. Aveva tanta voglia di veder morire un cristiano all'aria aperta che volevan birboni far la festa al signor vicario di provvisione. Invece sua avranno 4 tristi serviti con tutte le formalità, accompagnati da cappuccini e da confratelli della buona morte, e gente che se l'è meritato. È una provvidenza, vedete? Era una cosa necessaria. Cominciava già a prendere il vizio di entrare nelle botteghe, di servirsi senza metter mano alla borsa. Se li lasciavano fare, dopo il pane sarebbero venuti al vino. E così, di mano in mano. Pensate se coloro volevano smettere di loro spontanea volontà un'usanza così comoda. E vi so dir io che per un galantuomo che ha bottega aperta era un pensier poco allegro. Davvero, disse uno degli ascoltatori. Davvero, ripeterono gli altri a una voce. E, continuò il mercante asciugandosi la barba col tovagliolo, l'era ordita da un pezzo. C'era una lega, sapete? C'era una lega. C'era una lega. Tutte cavale ordite da Navarrini, da quel cardinale là di Francia, sapete chi voglio dire, che ha un certo nome mezzo turco e che ogni giorno ne pensa una per far qualche dispetto alla corona di Spagna, ma soprattutto tende a fare qualche tiro a Milano, perché vede bene il furbo che qui sta la forza del re. Già. Ne volete una prova? Chi ha fatto il più gran chiasso? Erano forestieri. Andavano in giro facce che in Milano non s'era mai vedute. Anzi, mi dimenticavo di dirvene una, che v'è stata data per certa. La giustizia aveva acchiappato uno in un'osteria. Renzo, il quale non perdeva un'ette di quel discorso, al tocco di questa corda si sentì venir freddo e diede un guizzo prima che potesse pensare a contenersi. Nessuno però se ne avvide e il dicitore, senza interrompere il filo del racconto, seguitò. Uno che non si sa bene ancora da che parte fosse venuto, da chi fosse mandato, né che razza d'uomo si fosse. Ma certo, era uno dei capi. Già ieri nel forte del Baccano aveva fatto il diavolo. E poi, non contento di questo, si era messo a predicare, a proporre così una galanteria che s'ammazzassero tutti i signori. Birbante! Chi farebbe vivere la povera gente quando i signori fossero ammazzati? La giustizia, che l'aveva appostato, gli mise l'unghia addosso. Gli trovarono un fascio di lettere e lo menavano in gabbia. Ma che? I suoi compagni che facevano la ronda intorno all'osteria vennero in gran numero e lo liberarono, il manigoldo. E cosa ne è stato? Ah, non si sa. Sarà scappato o sarà nascosto in Milano. Son gente che non ha né casa né tetto e trovano per tutto da alloggiare, da rintanarsi. Però finché il diavolo può e vuole aiutarli, ci dan poi dentro, quando meno se lo pensano. Perché quando la pera è matura conviene che caschi. Per ora si sa di sicuro che le lettere sono rimaste in mano della giustizia e che c'è descritta tutta la cabala. E si dice che ne andrà di mezzo molta gente. Peggio per loro, che hanno messo a suo quadro mezzo Milano e volevano anche far di peggio. Dicono che i fornai sono birboni, lo so anch'io, ma bisogna impiccarli per via di giustizia. C'è del grano nascosto, e chi non lo sa? Ma tocca a chi comanda a tenere buone spie e andarlo a dissotterrare e mandare anche gli incettatori a dar calci all'aria in compagnia dei fornai. E se chi comanda non fa nulla, tocca alla città a ricorrere. E se non danno retta alla prima, ricorrere ancora, che a forza di ricorrere sottiene. E non metter su un'usanza così scelerata ad entrare nelle botteghe dei fondachi a prendere la roba a man salva. A Renzo quel poco mangiare era andato in tanto veleno. Gli pareva 1000 anni d'esser fuori e lontano da quell'osteria, da quel paese. E più di 10 volte aveva detto a se stesso, andiamo, andiamo. Ma quella paura di dar sospetto, cresciuta allora oltremodo, e fatta tiranna di tutti i suoi pensieri, l'aveva tenuto sempre inchiodato sulla panca. In quella perplessità pensò che il ciarlone doveva poi finire di parlare di lui e concluse tra sé di muoversi appena sentisse attaccare qualche altro discorso. «E per questo», disse uno della brigata, «io che so come vanno queste faccende, che nei tumulti i galantuomini non ci stanno bene, e non mi sono lasciato vincere dalla curiosità, e son rimasto a casa mia. E io non mi son mosso», disse un altro. «Io», soggiunse un terzo, «se per caso mi fossi trovato in Milano avrei lasciato in perfetto qualunque affare e sarei tornato subito a casa mia. Ho moglie e figliuoli, poi, dico la verità, i baccani non mi piacciono». A questo punto l'oste, che era stato anche lui a sentire, andò verso l'altra cima della tavola per vedere cosa faceva quel forestiero. Renzo colse l'occasione. Chiamò l'oste con un cenno, gli chiese il conto, lo saldò senza tirare, quantunque le acque fossero molto basse. E senza far altri discorsi andò dritto all'uscio, passò la soglia e a guida della provvidenza si camminò dalla parte opposta a quella per cui era venuto. Thank you.